Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Una puntata speciale del Cacciatore di Libri in onda da Mantova, dove si sta svolgendo il Festival Letteratura, 16ª edizione. Come sempre è un'occasione per i lettori di incontrare e sentir parlare scrittori italiani e stranieri, famosi e poco noti. Il bello di Mantova è proprio questo, perché accanto ai big ci sono autori semi sconosciuti che non necessariamente propongono libri di nicchia. Quest'anno fra i big sicuramente Massimo Gramellini, che con l'ultimo romanzo Fai bei sogni ha venduto 660.000 copie. Il suo incontro è stato uno di quelli più amato dal pubblico. Grande folla anche per Ligabue al Festival Letteratura in veste di autore di racconti. Pienone anche per la scrittrice afroamericana Toni Morrison, Nobel nel 99, alla quale il festival ha dedicato una retrospettiva, quindi praticamente un incontro al giorno. Ma il bello di questa manifestazione è la scoperta di autori poco noti. Grande successo per l'incontro con lo scrittore islandese Jón Kalman Stefánsson, autore di una trilogia della quale in Italia sono stati pubblicati da Iperborea i primi due volumi, Paradiso e Inferno e fresco di stampa La tristezza degli angeli. In particolare Paradiso e Inferno è stato definito il miglior romanzo islandese degli ultimi decenni e ha ricevuto critiche molto positive anche in Italia. Ma qual è il segreto di questi romanzi? Lo abbiamo chiesto alla fondatrice di Iperborea, casa editrice specializzata in autori nordici, che quest'anno compie 25 anni, Emilia Lodigiani. Credo proprio che rappresenta un po' l'epitome, il simbolo, la sintesi di tutti i grandi temi della letteratura nordica. L'Islanda è un paese in cui la natura è di una tale forza, di una tale violenza, che non si può evitare di metterla al centro di tutto. Infatti tutta la narrativa islandese ha la natura come, direi, quasi protagonista, e sicuramente nei romanzi di Stefánsson, in cui c'è l'uomo confrontato a queste forze immani. In Paradiso e Inferno è la tempesta, il mare, mentre in questo nuovo La tristezza degli angeli sono tempeste di neve. C'è sempre un personaggio che va alla ricerca di se stesso, sono viaggio attraverso il paesaggio islandese e appunto sempre in mezzo a nevicate, turbini, si perdono, incontrano fattorie sperdute, incontrano vari personaggi che portano avanti la storia di un giovane che viene chiamato il ragazzo, che è il protagonista di tutta la trilogia, e un vecchio postino in questo nuovo romanzo. In pratica è tutta la trilogia un viaggio di formazione, di scoperta di questo ragazzino abbandonato e orfano all'inizio della trilogia, e che man mano arriva a scoprire la società, l'apporto degli altri, fino alla sua vocazione di scrittore. Per restare sugli stranieri, al Festival Letteratura sono stati anche ricordati 50 anni dalla morte di Karen Blixen. La scrittrice danese viene ricordata soprattutto per La mia Africa, ma in realtà i libri sull'Africa sono marginali. La sua specialità sono stati i romanzi gotici. Qui a Mantova il saggista Luca Scarlini le dedica una performance. Qual è il regalo che ci ha lasciato la Blixen? La parola a Scarlini. La passione del vedere la realtà sotto un'altra luce. Visto che il suo primo libro si chiamava Sette storie gotiche, il gotico va di gran moda da Twilight in poi, quello che lei ci ha insegnato è che nelle storie più ovvie, nei momenti più banali del quotidiano, si può sempre annidare un'avventura che spesso è sotto il segno del gotico, appunto, dell'epifania, della rivelazione. In definitiva, Karen Blixen diceva di se stessa che era una strega che aveva votato se stessa Satana, perché, avendo per la sifilide perduto la capacità di amare e di avere relazioni con altre persone, dice nelle sue varie testimonianze riportate da persone a lei amiche che in un momento specifico il diavolo le aveva dato il talento e la narrazione di poter trasformare tutto quello che era ovvio in sorprendente. In un mondo in cui l'ovvietà ci uccide e ci soffoca, la capacità di vedere le cose in un'altra luce è un grande regalo. Al Festival di Mantova si fa anche il punto sulle nuove tendenze dell'editoria, come la moda dei racconti. Nuovi rappresentanti stranieri del genere, l'americano Nathan Englander e l'israeliano Edgar Keret. Englander ha appena pubblicato in Italia con Einaudi la raccolta Di cosa parliamo quando parliamo di Anna Frank, un titolo che riecheggia quello di un famoso scritto breve di Raymond Carver, il maestro del racconto. In questo racconto, che dà il titolo alla raccolta, si parla di due coppie sedute intorno a un tavolo, fra i fumi dell'alcol e della marijuana, fanno il gioco di Anna Frank, cioè si domandano: se dovesse tornare l'olocausto, chi dei nostri amici non ebrei sarebbe disposto a nasconderci? Caretta ha invece pubblicato con Feltrinelli la raccolta All'improvviso bussano alla porta. Sono dei racconti fulminanti e a tratti grotteschi. Fra gli scrittori italiani di racconti, qui a Mantova Andrei Longo, che qualche anno fa pubblicò per Adelphi la raccolta 10, tutte storie ambientate a Napoli. Longo ci racconta che differenza c'è fra romanzo e racconto per chi scrive. Un romanzo devi seguire il protagonista dall'inizio alla fine. Hai anche la possibilità di conoscerlo mentre lo racconti, è quasi tu stesso il tempo di crescere insieme alla storia che racconti. E invece i singoli racconti sono più fulminanti, cioè tu apri una finestra nella vita di queste persone, però devi sapere tutto della loro vita. Più sai, più sceglierai il momento giusto in cui aprire la finestra, cioè sei tu che scegli quando aprire questa finestra. E spesso i racconti sono utili quando non riesci a trovare un personaggio per raccontare qualcosa che hai dentro, e mentre più voci, più personaggi, più racconti ti permettono di guardare la stessa cosa da vari punti di vista e poter raccontare quello che hai dentro. Spesso i racconti sono considerati letteratura di serie B rispetto ai romanzi. È una sciocchezza, ovviamente. Esistono dei buoni racconti e dei cattivi racconti, come dei buoni o dei cattivi romanzi, ma sia tecnicamente sia come contenuti non è facile scrivere un buon racconto. Ci vuole sintesi, ci vuole devi far apparire quello che c'è dietro la storia in pochi gesti, in pochi momenti, in pochi attimi, come una fotografia. E penso che spesso i racconti sono più illuminanti di un romanzo. Altra tendenza esaminata al festival è la letteratura sul condominio. Il microcosmo di un palazzo è un ottimo soggetto per i romanzi. Ci sono esempi illustri del passato, come Quel pasticciaccio brutto di via Merulana di Gadda, ma esempi recentissimi come L'eleganza del riccio della francese Muriel Barberi. A Mantova due scrittori a confronto: Marco Missiroli, finalista al Campiello con Il senso dell'elefante, ambientato appunto in un condominio, e Nicola Gardini, autore di Le parole perdute di Amelia Lind, dove il protagonista è un giovane figlio di una portinaia. Ecco come Gardini ci spiega perché ha scelto di ambientare la sua storia in un condominio. A me interessano gli spazi chiusi. Anche altre mie prove narrative precedenti nascevano proprio dalla volontà di indagare le dinamiche all'interno di uno spazio molto caratterizzato e ristretto. Per esempio il ricovero per malati d'Alzheimer nella storia di mio padre, lo sconosciuto, oppure un'altra forma di ricovero di dementi, l'università italiana, o nei Baroni, oppure nel mio primissimo Un'estate di un bambino italo-americano nella casa opprimente dei parenti italiani. E nel caso del condominio mi pareva di avere davanti una mappa molto utile per il mio lavoro di narrazione e anche una specie di modello fisico per quello che penso io dell'essere umano, che è non solo quello che crede di essere, ma tanti altri contemporaneamente. Quindi diciamo la vicinanza e addirittura la condivisione delle pareti fra le case di questi apparentemente individui mi offriva davvero la possibilità di esplorare questa vaghezza dell'identità. Anche, no? Il ragazzino infatti non ha un'identità, il figlio della portinaia, è uno che si muove liberamente nello spazio e via via l'acquisisce, ma proprio passando attraverso uno spazio e un altro. È come una specie di bacheca che tu puoi osservare da fuori. C'era sicuramente anche il mio grande amore per l'Orlando Furioso, no? La coesistenza di tanti piani contemporaneamente, e di piani effettivamente qui si tratta, no? Perché si va dal primo al quinto, con anche quindi spostamenti orizzontali, verticali o anche trasversali, con inabissamenti verso la cantina, nel locale caldaia, oppure elevazioni fino al solaio. Quindi il condominio non è separato poi dal palazzo, dal vero spazio fisico. È stato bello organizzare questo lavoro, perché poi mi sono servito di tante mappe, ho finito per, anche se il palazzo è immaginario, l'ho davvero creato con disegni, so esattamente come è fatto, e questo ha ovviamente anche determinato la scrittura. Il Festival Letteratura di Mantova si conferma dunque valido nelle sue proposte, nonostante quest'anno la crisi abbia tagliato i fondi e il terremoto abbia creato problemi logistici e cambi dei luoghi di incontro. Sentiamo una delle organizzatrici, Marzia Corraini. La crisi c'è per tutti, fortunatamente però moltissimi dei nostri partner sono rimasti con noi, e devo dire che li ringraziamo per la vicinanza nonostante le difficoltà, e quindi noi abbiamo potuto avere, diciamo, una base per poter costruire. Certo, ci siamo anche limitati, se voi vedete i luoghi sono stati scelti con una cura diversa, abbiamo usato queste tende che usiamo per grandi incontri ma anche per incontri più piccoli, quindi abbiamo un po' fatto l'elastico, come dire, per cercare di risparmiare. Forse non ci siamo permessi un allestimento nuovo o qualche altra cosa, però ci siamo per esempio permessi tutta una serie di situazioni, tipo il progetto 1830 e anche Spreco Zero, che in fondo anche economicamente impattano su di noi, ma che crediamo siano degli elementi a cui il festival deve prestare attenzione. Abbiamo cercato di usare le risorse mettendole in quelle che noi credevamo fossero i punti giusti. Non abbiamo rinunciato a nessuno, perché noi paghiamo viaggi, non gettoni. Ecco, magari non siamo andati a cercare, poi no, sono arrivati un po' dappertutto, cioè voglio dire, sicuramente rispetto all'anno scorso ci sono diversi incontri in meno. Tra l'altro sottolineo, ci sono diversi incontri in meno col biglietto, ce ne sono in più senza biglietto, il che vuol dire che noi non abbiamo diminuito l'offerta di cultura. E anche per oggi è tutto, vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it. Un saluto da Alessandra Tedesco.